Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Appostamenti, intrusioni nella vita privata, lettere o messaggi che rendono difficile lo svolgimento della vita quotidiana, un reato per cui è prevista una pena da 1 a 4 anni. Io partivo ogni settimana, andavo giù all'improvviso perché avevo bisogno di vederlo, di sapere se stava bene, però molto ovviamente c'era anche del terrore in me e anche in lei, perché eravamo tutti spaventati. Praticamente io andavo giù e aspettavo che usciva di casa, andavo al lavoro, vedevo dove andavo, cosa faceva, magari mi vedeva, si spaventava, chiamava i suoi, insomma ci sono stati dei grossi problemi, per cui io appena la vedevo scappavo, ripartivo, cioè io via mail, via sms, via fax, cioè io ho fatto quelle cose per 3-4 mesi, forse anche di più. Non è la prima volta che parliamo di stalking, ma ci torniamo anche oggi per una serie di motivi. Primo, seguendo la cronaca, oggi leggo del processo allo stalker di una conduttrice televisiva, Monica Leofreddi. L'ha seguito ovunque, si è spacciato per il suo commercialista per avere informazioni sui dati bancari. L'ha perseguitata al punto tale che è stata costretta, e guardate, una conduttrice televisiva nota, quindi rispetto alla donna comune ha comunque delle garanzie date dalla sua visibilità, dal fatto che sia persona notoria. Nonostante questo, l'attività di quest'uomo, che adesso è sotto processo, ha rovinato parte delle giornate di questa collega, l'ha costretta a cambiare le sue abitudini, a interrompere dei suoi impegni di lavoro e a cambiare casa. Ma quanto questo è uno dei motivi, un altro motivo è che sempre più spesso mi arrivano messaggi o testimonianze di donne che conosco e capita di conoscere e sentire, di un'attività che va dal semplice invio continuo di sms a un reiterato richiesta di incontro, a un trovare persone sotto casa. Insomma, sembra quasi, come ho detto in apertura, che con la stagione estiva si riaccenda questa sorta di compulsiva perversione maschile di non mollare le donne, di non mollarle mai. Poi lo stalker in alcuni casi diventa anche violento, diventa una persona molto pericolosa, lo stalker può arrivare anche a uccidere la sua vittima, ma nelle fasi intermedie, quelle più frequenti, quelle più comuni, quelle che di solito le donne si raccontano con vergogna tra amiche, non hanno nemmeno il coraggio delle volte di raccontarlo ai propri compagni o alle persone con i propri familiari. È qualcosa di mellifo, di viscido, di schifoso, sempre da parte di persone insospettabili, specchiati professionisti, illuminati padri di famiglia. Magari uno ci esce una sera, ci va a bere qualcosa assieme, una serata allegra, una donna tranquilla e libera può permettersi di passare una serata con una persona, chiacchierando conversando. Le avanze dell'uomo si fanno più insistenti, la donna può decidere di accettare questa corte, di avere con lui un rapporto amoroso, può anche decidere che non ce l'ha, o può anche decidere di averne uno e non averne più. Beh, molte volte nell'uomo scatta una sorta di molla per cui non si rassegna, no, quella donna deve essere sua, deve continuare a essere sua. Se con quella donna ha avuto un rapporto, ha avuto una storia d'amore, ha avuto anni di convivenza, di matrimonio, comunque sia, a un certo punto non si rassegna che questa donna non debba più essere sua. E poi comincia in maniera tranquilla, comincia poi in maniera sempre più insistente. Oggi le protesi per comunicare che abbiamo tutti noi sono sempre più frequentemente a disposizione delle persone che noi conosciamo, perché non lesiniamo i nostri numeri, non lesiniamo i nostri contatti nei social media, e quindi diventa una sorta di accerchiamento che a un certo punto di vista non è più la solita attenzione, è qualcosa di soffocante, messaggi che arrivano di giorno, che arrivano di notte, presenza inquietante che uno sente come con il fiato sul collo. E cosa si fa in questi casi? Ci si rivolge a degli specialisti, è quello che faremo noi questa mattina. Massimo Lattanzi, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Lattanzi è stato più volte nostro ospite, il dottor Massimo Lattanzi è uno psicologo, uno psicoterapeuta, ha fondato l'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia e è coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking. Quindi c'è già un indirizzo web www.stalking.it che già è un primo punto, un primo passo. Lattanzi, quello dai messaggi che sono arrivati, le testimonianze delle persone che ci hanno chiesto aiuto, è difficile definire quella che può essere un'attenzione un po' più insistente da un sintomo di inizio di stalking. Quando è che comincia la persona che ci manda magari qualche sms semplicemente che vuole vederci, parlo naturalmente di signore e signorine, cominciare a aver paura e cominci a essere uno stalker? Come ci si comporta in questo caso? Ma guardi, assolutamente importante quando noi sentiamo che c'è qualcosa che va oltre una relazione fra virgolette normale, quando questa persona in qualche modo, come già abbiamo detto ma è importante ripeterlo, non ascolta quello che noi diciamo, in qualche modo insiste nelle attenzioni, nelle presenze, nelle partecipazioni, anche se lui di solito, ma anche lei, in qualche modo fanno passare questo messaggio come particolari attenzioni, è un controllo. Proviamo a, e se l'abbiamo già fatto, ascoltiamoci, perché queste persone non ci ascoltano. Noi dobbiamo mettere dei confini molto importanti. Se lei dovesse dare un consiglio, la prima cosa da fare, mettiamo con il messaggio insistente, perché non mi chiami, cosa è meglio fare? Non rispondere o rispondere decisi, lasciamo in pace, tanto per partire subito dalla base. Ho compreso, e diciamo che ogni caso è differente dall'altro e va valutato, non possiamo dare dei consigli generalizzandoli. Di sicuro dobbiamo far comprendere a questa persona che noi siamo capaci di gestire la relazione e che noi ci facciamo rispettare. Questo è importante, che questa persona non può prendere il sopravvento e non ci può invadere. Questo è fondamentale per contenere casi di stalking, perché altrimenti queste persone ci invadono costantemente, ci prendono il controllo e ci rendono dipendenti. Questo è il problema di fondo. Quindi non cedere mai, non lasciarsi prendere dalla compassione o dai buoni sentimenti, dire beh, no, sì, in fondo poverino, magari ci parlo e forse qualcosa capisce. No, è impossibile. No, assolutamente no, perché queste persone nella maggior parte dei casi distorcono la comunicazione a loro favore, cioè loro leggono quello che vogliono leggere, quindi meno comunichiamo di solito meglio è. Non sempre è utile però chiudere completamente la comunicazione, perché queste persone possono perdere il controllo. Certo è molto difficile poi modulare da caso a caso, e non per questo è importante rivolgersi e chiedere aiuto a centri come l'Osservatorio dei Centri Antiviolenza, che hanno le competenze per valutare da caso a caso. Dico questo, se mi posso permettere, vi do in anteprima dei dati di una ricerca fatta all'Università della Sapienza a Roma 3 su 200 studenti under 25. Quello che ci ha colpito particolarmente è che nonostante tutte queste campagne, e ringrazio la vostra radio e il vostro programma per fare da cassa di risonanza, che il 91% degli studenti di sesso maschile non hanno mai chiesto aiuto anche se hanno subito una violenza o un atto persecutorio, e il 55% del nostro campione femminile non ha mai chiesto aiuto per paura che possano peggiorare la situazione. Quindi c'è un momento critico in cui uno deve prendere una decisione e deve agire. Assolutamente, affidarsi. La cosa migliore è affidarsi a chi ha esperienza. È inutile chiedere agli amici, alle amiche cosa faccio, no, danno i consigli. No, perché queste persone possono essere a loro volta a centro di attenzione di queste persone, perché se queste persone si rendono conto che io ho chiesto aiuto e in qualche modo queste persone a cui ho chiesto aiuto possono togliermi dalle grinfie di queste persone iniziano questa campagna persecutoria, malefica, aggressiva nei confronti di tutte le persone a cui ho chiesto aiuto. Bisogna chiedere aiuto o, nei casi estremi, nei casi più pericolosi, alle forze dell'ordine, non lo dimentichiamo, che sono dei grandi professionisti, o in prima battuta dall'Osservatorio Nazionale Stalking o a tutti i centri antiviolenza che fanno un lavoro encomiabile. Ecco, molte volte la paura è dire di entrare in un'escalation che si ha paura di non gestire o di essere fraintesi, poi magari molte volte lo stalker è una persona autorevole rispetto alla sua vittima, ha una posizione di predominanza, cioè, ma poi magari mi fa passare per matta. 800 24 00 24, questa è la mattina in cui dal caso più semplice, apparentemente soltanto uno stalking ai suoi esordi, fino al caso più complicato, questa è la mattina. Se avete domande da fare, noi risponderemo. Laura, buongiorno. Buongiorno. Lei, Laura, è vittima di stalking? Sì, purtroppo sì. Scusate, sono un po' emozionata. Vediamo se lei può raccontare qualcosa della sua storia, così aiuta anche altre persone che potrebbero trovarsi in situazioni simili alla sua. Come è iniziato, da parte di chi è iniziato? Diciamo che comincia come possono cominciare tante storie, con una persona. L'elemento importante che caratterizza, secondo me, non essendo un'esperta, queste persone è la loro gentilezza, il loro modo di avvicinarsi, perché è il punto debole poi di chi subisce, diciamo, la mancanza di sentimenti che magari ha avuto sin da bambina. Quindi diciamo, chi può riempire e colmare questo vuoto? Una persona che ti riempie di attenzioni. Dall'inizio è una persona molto gentile, molto affabile, sì, comprensiva, sì, educatissima, sì, magari. Sì, sì, sì, è una persona che ti rende la donna migliore del mondo e dell'uomo che tutti vorrebbero avere. Però diciamo che poi c'è un certo confine, quando quella gelosia che tu ritieni normale fino a un certo punto comincia a diventare persecuzione. E nel momento in cui comincia a diventare persecuzione, entri in un baratro. Quindi lei parla di una persona con cui uno ha avuto già un rapporto consolidato, ecco. Sì, sì, quattro anni di questa storia che, diciamo, ha avuto un'escalation non indifferente. E quando è stato il primo sintomo? Come si è avvertito? Il primo sintomo che qualcosa non funzionava? Ripeto, all'inizio quando vedi questa gelosia, no? Dici, vabbè, è normale. A volte che c'è, sì, la gelosia, cioè, geloso. Uno ci scherza. Poi man mano gioca. Comincia a diventare 100 telefonate di seguito, comincia a diventare 100 messaggi di seguito, appostamenti, perché poi comincia la famosa lotta di respinta e riavvicinamento. Più lo respingi, più si avvicina. Più lei aveva interrotto questa relazione? Io ho cercato di interromperla. Perché era soffocata, non ne poteva più, qual era il motivo? No, infatti ho fatto delle denunce, insomma ci sono stati anche dei risvolti a livello proprio di giudiziari. Sì. E nonostante questo? Diciamo che io la debolezza, la carenza che ho affettiva, dall'altra parte ho una forza che mi porta poi a voler portare avanti determinati discorsi. È per questo che ho bussato a varie porte di persone, fra virgolette, chi esperti, chi meno esperti, fino a quando poi sono arrivata al centro, del dottor Massimo Lattanzi. Ah, beh, io in particolare sono stata seguita dalla dottoressa Tiziana Calzone. Diciamo, loro sono persone molto determinate e decise, ma allo stesso tempo accoglienti. Quindi diciamo, è il centro, diciamo, le amiche, come diceva prima il dottor Lattanzi, le amicizie, sì, fino a un certo punto ti possono dare un consiglio, ma è molto personale. E invece un esperto ti può guidare su una strada diversa. Ecco, per capire, vediamo com'è il percorso, come funziona. Lei ha lavorato su di sé o ha cercato di stabilire un rapporto diverso con il suo persecutore? Sì, nel momento in cui io mi sono resa conto che non potevo farcela da sola, e ho cominciato a bussare a varie porte, quindi centri psicologici, centri specializzati, ma vedevo che non bastava, perché lavorare solo su di me, diciamo che era un lavoro impari, cioè lottavo contro i mulini a vento, perché poi dall'altra parte c'era, diciamo, lo stalker o il presunto stalker che continuavo a fare sempre le stesse cose, al che ho pensato, è impossibile lavorare su di me e non su di lui. E quindi ho fatto sì che anche lui fosse seguito dal centro. Vabbè, lui allora ha capito che è un malato, è un caso abbastanza... Sì, sono delle patologie, anche se apparentemente sembrano persone normalissime, però in realtà... Ma come fa a convincere una persona che è ossessionato, che nella vita non vuole altro che essere il suo carceriere, a dire no, vatti a far vedere, fa un percorso terapeutico perché sei malato? Non credo che sia facilissimo. La cosa importante non è dire a loro che sono malati, perché è normale, nessuno dice io non sono malato, tu sei tu la pazza, vai tu, come mi è successo, certo, in passato, purtroppo sono recidiva. E invece diciamo che questa persona, quest'ultimo caso, ha accettato. Ah, quindi lei è, diciamo, abitualmente vittima di stalking? No, abitualmente no, sarebbe esagerato, diciamo è la seconda volta. La seconda volta c'è accaduto. Sì, perché c'è una debolezza di fondo che ti porta a far sì che queste persone ti si avvicinino. perché riconosci come forma di amore questo. Ecco perché bisogna lavorare. Quindi lei intuisce che lo stalker va a cercare soggetti particolarmente, esatto, bisognosi di attenzione, di affetto. Esatto. Almeno questo è quello che ho riscontrato io. Poi ci sono persone. Ma fermiamoci un attimo, Laura. Resti in ascolto, resti in ascolto. Giulia. Salve, sono Giulia da Siracusa. Io volevo solamente dire una cosa, perché io sono stata vittima di stalker e questo ragazzo mi ha letteralmente distrutto la macchina. Cominci però a raccontare com'è il caso, perché dobbiamo sempre dare degli esempi, com'è iniziata la cosa. Il caso è iniziato che praticamente questa persona, che era un amico di un amico, si era infatuato di me senza che io lo sapessi. È un segreto innamorato, ecco. Sì, quindi quando diciamo è venuta fuori questa cosa, nel senso che lui mi ha voluto comunicare questa cosa, si è dichiarato, facciamo così. Si è dichiarato, mi ha invitato, io chiaramente non ho accettato. È stato un approccio, diciamo, elegante, oppure fastidioso? Sì, elegante. Poi quando gli ho detto di no, insomma, io gli ho detto, guarda, assolutamente non, io stasera non posso, cioè, quindi mi sono... Non cedo. Anche perché non l'avevo completamente capito, ed è successo che sono arrivate delle telefonate a casa durante la notte, mentre io però non ero a casa, ero da un'amica, e mia madre quindi mi disse, mi raccontò questo, dice, guarda, ha telefonato un tizio alle 4 di notte, alle 6 di mattina. Ma era la notte stessa, diciamo, del giorno della mancata cedimento. Quindi io quando l'ho richiamato, insomma, l'ho rimproverato aspramente, non pensando che lui fosse uno stalker, naturalmente, e mi ha massacrata al telefono, mi ha minacciata, insomma, non le dico quello che mi ha detto. Cioè era cambiato completamente rispetto al ragazzo gentile. Al gentile ragazzo che mi aveva invitato, quindi io a questo punto... E di cosa l'accusava? Di cosa l'accusava? No, mi diceva delle brutte parole. Io a quel punto ho chiuso il telefono perché ho capito che stavo parlando con una persona diversa da quella che fino a ieri mi aveva... C'è un cambio radicale di personalità. Esattamente. E poi quando, insomma, sono andata da mio fratello, gli ho detto, guarda, c'è questa situazione, andare a casa di mio fratello, dove lui sapeva che io spesso frequentavo, insomma, a casa di mio fratello, e ho detto, guarda, è successa questa cosa, io non so che cosa devo fare, perché mi sembrava una cosa pazzesca andare dai carabinieri, cioè ho detto, beh, questo è arrivato, ho fatto delle telefonate, faccio meno dai carabinieri. Poi ho detto, senti, sono andata a prendere una cosa in macchina e ho trovato che la macchina gli avevano dato dei calci. Allora ho detto, sono andata a mio fratello, ho detto, per favore la sposti la macchina, ho la vaga impressione che sia qua sotto, mi ha dato dei calci sulla macchina. Mio fratello scende e vede questo tizio che stava prendendo a calci la mia macchina. Io ho detto, ora lo ammazza, cioè pensando mio fratello lo potesse aggredire, invece mio fratello ha chiamato i carabinieri. È stato saggio, cosa che... E cosa è accaduto? E lo hanno arrestato, gli hanno fatto un TSO, l'hanno portato... Diciamo, lo hanno arrestato, ma gli hanno fatto questo... È un trattamento sanitario obbligatorio. Si dà alle persone che hanno problemi di tipo psichico, che io ci dovevamo sposare, che dovevamo avere... Quindi io... Sì, era completamente... Era follia pura. Era follia pura, e poi qualcuno mi ha chiesto, ma tu cosa hai fatto? Cioè, mi avrei detto qualche cosa, perché se lui si è comportato così... Ci hanno insinuato... Abbassi la radio, però, abbassi la radio. Spenga la radio, sennò sente la mia voce su. Cioè, hanno insinuato che lei avesse in qualche maniera compiaciuto e giustificato. Compiaciuto, e anche il padre di questo ragazzo, la famiglia di questo ragazzo, diceva, non è possibile che... Perché evidentemente lei nessuno gli ha dato... Gli ha dato motivo, ma se anche fosse che lei gli ha detto, te la darò un'altra volta, ma lui che è obbligato a trattarla in quella maniera? Massimo Lattanzi. Comunque, dopo tanti anni, io poi non l'ho più rivisto. Si è ripresentato perché l'ho incontrato mentre ero in un negozio e lui era alla cassa. Io sono rimasta che lui l'ha visto e me lo sono ritrovato di nuovo sotto casa dei miei genitori. C'ha avuto una recidiva. Una recidiva. Allora, Massimo Lattanzi, fermali, Giulia, ho capito, fermali, resti lì. Massimo Lattanzi, vede, sono due casi abbastanza diversi che però danno un quadro completo. Dove hanno sbagliato nell'agire le persone, le due donne in questo momento, o se no cosa hanno fatto invece di giusto al contrario? No, non ho sbagliato assolutamente nulla, è che hanno incontrato le persone che sono dei grandi manipolatori, che si presentano per quello che non sono e poi chiedono conto di quello che non ottengono. È solo che sono delle persone, degli incantatori di persone, sono delle persone molto affascinanti che in qualche modo ci convincono, ci attraggono. Questo è il lavoro, la cultura che bisogna trasmettere, che queste persone non sono apparentemente dei mostri, sono delle persone molto sensibili che sanno identificare le proprie prede, purtroppo, ma che queste prede in qualche modo in quel momento storico sono vulnerabili e hanno questa, chiamiamola, struttura di personalità camaleontica che ci confonde. Infatti proprio questi dati di una nostra ricerca che presenteremo giovedì a Roma e venerdì a Pescara ci danno conto di questi disturbi della personalità. Allora, Lattanzi, diamo un attimo la linea alle informazioni della borsa. Si tenga pronti i dati, li comunichiamo fra un po', così cominciamo. È interessante definire l'identikit, perché uno quando pensa allo stalker pensa a un bruto, peloso, rozzo, animalesco, con la bava alla bocca. Invece è un signore ben vestito, elegantissimo, molto gentile, dai modi squisiti, che uno dice, ah, che bello, ho trovato l'uomo che ho cercato tutta la vita. E invece è quest'altra cosa. Melog, la realtà condivisa. I carabinieri hanno arrestato un commerciante incensurato di 35 anni. Per convincere la sua ex fidanzata, studentessa 21enne, a tornare con lui, la dapprima tempestata di telefonate, sms e mail, e poi si è rivolto alle sue amiche, minacciandole perché l'aiutassero a ricucire il rapporto. Ma a spingere la 21enne alla denuncia è quanto succede nello scorso ottobre, quando il commerciante arriva a sequestrarla per alcune ore, rinchiudendola nel suo negozio, dove la lega in bavaglia col nastro adesivo. A Cerignola, invece, a finire in manette è stato un fruttivendolo... 800240024, sono storie dolorose, storie apparentemente incomprensibili, quelle di uomini apparentemente perfetti, gentilissimi, affabili, che si trasformano in mostri, in persecutori. E la donna, una donna che per sua natura è sempre generosa, tende sempre all'inizio a minimizzare, a non capire, a cercare di comprendere, e poi si trova, se non agisce in maniera repentina, in maniera decisa, e con le persone che conoscono come trattare questo tipo di patologia, perché lo stalker in realtà è un malato, una persona che ha un problema, anche un grosso problema, si trova in un inferno di vita, in cui non è più padrona di se stessa, delle proprie azioni, delle proprie relazioni. Stiamo parlando questa mattina di stalking, lo facciamo con il dottor Massimo Lattanzi, che è uno psicologo e psicoterapeuta, fondatore dell'Associazione Italiana Psicologia e Criminologia, e coordina l'Osservatorio Nazionale sullo Stalking, www.stalking.it, per le donne che avessero desiderio o volontà di rivolgersi a qualcuno che comunque conosce il problema, perché in realtà la maniera di agire deve rispondere ad alcune tattiche, non si può agire in maniera indiscriminata, si rischia di dare ancora più linfa vitale al proprio persecutore. Sentiamo prima alcuni ascoltatori, stavolta ascoltatori maschi. Mi scrive un ascoltatore, dice: lo stalker mina la tua libertà personale, ti rende la vita un incubo, vivi nel terrore, H24, trovato davanti impazzito che possa farti del male. In genere sono ex mariti, ex compagni che vogliono decidere loro come e quando definire una storia. O se no, come il caso di un ascoltatrice chiamato poco fa, persone con cui la storia non è mai iniziata, però si sentono in diritto comunque di rivendicare qualcosa. Nicola, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Allora, no, io volevo appunto dare la mia testimonianza, perché si parla sempre di stalking in sesso, cioè rivolto al sesso maschile, ovviamente, non è come la vittima è sempre il sesso femminile, purtroppo, cioè, insomma, può capitare anche alcune assolutamente volte che la vittima sia maschile. Ecco, il sottoscritto è da ormai 8-9 anni, ormai ci convivo, perché... Ma lei non ha potuto prendere dei provvedimenti? Io sono andato ai carabinieri e alla polizia, mi hanno detto che in qualunque momento se la denuncio la vanno... E perché non l'ha denunciato? Allora perché non l'ha denunciato? Ah, perché alla fine... Mi fa pena? Mi fa pena, sì. E dopo che gli allora ho dato... Dopo che gli ho dato questa comunicazione ha calato notevolmente, dal 70-80 sms, 50 telefonate giornaliere, siamo arrivati a 2-3 sms, 3-4 telefonate giornaliere, insomma. Che per lei è un limite tollerabile. Lei lo sa, però, che il vero problema è il filo sottile di complicità che lega la vittima e lo stalker. In questo caso c'è una complicità fra voi. Le lascia uno spiraglio aperto, poi sarà il dottor Lattanzi, lo dirà meglio di me. In questo spiraglio la persona ha trovato una maniera di galleggiare, un'area di galleggiamento in cui continua comunque a starle attaccata. E questo è il fatto. Dovesse sentire come le rispondo al telefono, insomma. Lo so, però. Purtroppo. Per me sarebbe un peso anche rispondere male a una persona se non c'ho voglia di sentirla, comunque. Esatto, ci sono stati anche degli apici, cioè, dove appunto questa persona, che tra l'altro distante da me, è proprio venuta sotto casa, è venuta. Allora lì, sinceramente, ho avuto un po' di paura. Ecco, ma avete avuto una storia in passato? Zero, assolutamente. Zero, che quindi è un caso proprio di erotomania, si chiama, la patologia è un erotomane. L'erotomane molte volte viene confuso con un maniaco del sesso, non è così. L'erotomane è una persona che è convinta, illusa, che una persona la ami e legge dei segnali che vede solo lui, anche se lei semplicemente dice buongiorno, dice vedi, mi sta facendo una dichiarazione d'amore. Rodolfo. Sì, buongiorno. Sì. Volevo portare la mia testimonianza per un fatto di stalking. Praticamente avevo un amico che aveva la sorella che aveva dei problemi di stalking perché era continuamente assillata da un suo ex che non la voleva più lasciare tranquilla. Allora lui si è rivolto alla mia associazione. Praticamente, adesso io lo ammetto, posso ridere, però cos'è successo? Ma la sua associazione di cosa si occupa, la sua associazione? Di andare direttamente dallo stalker e spiegargli a modo mio. Sono andato praticamente con un amico. Sì, ma gli abbiamo dato non è una bella rinfrescata. Cioè l'avete menato praticamente? Sì, gli abbiamo dato una rinfrescata, ma di quelle che ti ricordi per un bel po' di tempo. Cioè uno lo teneva fermo e l'altro lo menava a turno? No, allora io sono andato, siamo andati senza sapere chi fossimo noi. Come abbiamo visto questa persona, l'avete abbiamo dato rinfrescata. E ma lui come ha fatto? Se lui sapesse perché, poi gli abbiamo spiegato. Ah, gli avete spiegato il motivo, sennò questo magari. Sì, gli abbiamo spiegato. E lui che ha detto? Nello spiegare, poi io per fargli capire ancora meglio, ero attrezzato da una mazza da baseball, no? Che non ho adoperato sul momento, e gli ho semplicemente detto che se lui ci avesse riprovato, io sarei ritornato e con la macchina vera gli avrei fracassato le ginocchia e l'avrei mandato su una. Allora, Rodolfo, io l'ho fatta parlare e l'ho stato ad ascoltare, ma si rende conto che il suo è un reato molto grave? No, con certe persone bisogna. Non è la strada giusta, non posso avvallare il fatto. Mi rendo conto che la tentazione a volte può essere quella. No, ma lo so, però guardi, ci sono certe persone. Non posso avvallare il fatto che si vada con la mazza da baseball, anche se a risolvere un problema con uno stalker. Fermo lì, Rodolfo. Massimo Lattanzi, perché non si arrivi a far passare il messaggio che ci si rivolge agli amici con la mazza da baseball, che può passare per la testa, siamo umani, certo. Guarda, violenza contro violenza assolutamente no, anche perché sennò ci troveremmo un esercito di mazze da baseball, perché il 20% della nostra popolazione è potenzialmente in procinto durante una separazione di non accettare questa separazione e poter agire degli atti persecutori. Prendiamo assolutamente le distanze da questo tipo di risposta, anche perché il nostro protocollo di risocializzazione altro non è che una visione italiana di percorsi di risocializzazione a livello internazionale. Nel 75% dà degli ottimi risultati. Anche perché, Lattanzi, una domanda faccio. Non è nemmeno detto che una persona spaventata fisicamente, ammesso che questo non sia un sistema da dover usare, poi smetta di farlo, anzi, secondo me potrebbe anche creare un effetto contrario. Assolutamente, perché comunque credo di aver compreso da questo signore che l'altra parte poi ci sia resa conto chi potrebbe essere stato il mandante inconsapevole. Sì, gliel'hanno spiegato, E quindi potrebbe anche lui a sua volta inviare dei bravi a picchiarla o addirittura ad ucciderla. Cioè, quindi si rischia, in Italia. Come è successo a volte. Sì, ma io invece, infatti, se mi posso permettere, non comprendo a che titolo e chi poi valuterà le responsabilità di questo tipo di associazione. Ma l'associazione l'aveva detto per dire una battuta, ancora in linea Rodolfo, non è un'associazione, ha detto, ah no, è andato via, ha capito che era meglio che si squagliava, nel senso non è un'associazione, loro l'hanno risolta alla paesana, uno ha detto, ciao, c'è uno che dà fastidio a mia sorella, gli andiamo a dare una lezione, sono arrivati due amici con la mazza da baseball e gli hanno dato una ripassata, cosa detestabile, lui ha detto un'associazione per prenderci in giro a noi, fra le virgole dice. No, se posso fare una battuta è un'associazione a delinquere. Certo, ma è chiaro, io l'ho detto. Assolutamente no. Quindi mi raccomando, ci sono centri in tutta Italia, scusatemi se ribadisco che no, ma ha ragione. Ventenne, trent'anni si occupano di questo, spesso no profit, che hanno acquisito un'esperienza di tutela per le persone. Sì, sa chiaro, non è che dovete andare o da Lattanzio da nessuno, guardate, no. Cercate di centri, ce ne sono tanti, lui è un professionista. Assolutamente, anche perché non dimentichiamoci che il presunto autore, il presunto stalker, è un figlio, è un genitore, è uno zio, è un vicino di casa, è un amico, è un collega di lavoro. Non è il mostro, è una persona che nel 95% dei casi è ben inserito nella società. È un avvocato, è uno psicologo, è un giornalista, è chiunque. Quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo rompere le ginocchia a tutte queste persone? E sul rapporto di complicità che è venuto fuori da una delle telefonate. Questo fra virgolette c'è, come dicevamo prima, nella nostra ricerca che ha preso in considerazione 50 soggetti tra uomini e donne, presunte vittime, presunti autori, evidentemente il campione di controllo. E cosa viene fuori? Che nel 50% dei casi dei tratti di personalità e dei disturbi dell'umore che abbiamo riscontrato con dei test psicodiagnostici e una valutazione psicofisiologica, ahimè, torna in un campione altrettanto significativo di quasi il 50% tra il campione delle presunte vittime. Cioè, paradossalmente, passatemi il messaggio, in qualche modo questo tratto è ricorrente sia nel presunto autore che nella presunta vittima. È quindi la vittima dello stalker, vediamo se ho capito bene, prego, ha in sé dei tratti caratteriali o delle sì, distorsioni di personalità, dell'umore, sì, che vanno a coincidere, entrano in sintonia con quelle del suo persecutore. Esattamente, e come dicevamo prima, io stalker non quasi mai seleziono a caso se non ho una perdita del contatto con la realtà, la lì parliamo della psicopatologia grave, ma nel 95% dei casi io seleziono la mia vittima perché in qualche modo mi somiglia ai miei stessi bisogni e desideri inappagati che io conosco e che so trasmettere. In questo è questo il modo in cui io conquisto tra virgolette la presunta vittima. Quindi ogni persona che è vittima di uno stalker rifletta bene dentro di sé, faccia un bel lavoro, perché in teoria, esatto, un domani potrebbe trovarsi nella situazione di perseguitare a sua volta. Non dico che questo adesso una condanna che senta, no, come una spada sua, però no, tenete conto che anche in voi c'è qualcosa che fa sì che questa persona vi perseguita, e questo non autorizza assolutamente nessuno a invadere la sfera personale di nessun'altra persona. Melog, la realtà condivisa. Ogni volta che affrontiamo questo argomento apprendiamo delle cose in più, quindi non è peregrino e non è inutile continuare a parlarne. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Senta, allora io sono intervenuto da poco in trasmissione, quindi spero di essere coerente con quello che state dicendo. Lei deve dire la sua storia, poi non eccomi qua. Una decina di anni fa circa, tramite internet, conobbi una persona che era di un'altra città, non era di qui di Roma. All'inizio sembrava che la cosa andava bene, eccetera, eccetera. A quei tempi ero sposato. Vabbè, era una sua storia, fatta. Ed ero in colpa. Mi sentivo ma perché in colpa? Non viva di sensi di colpa, no, lei no, gestisce no, la sua no, vita. No. Aspetti, ma sì, questa era una ragazza giovane, 21 anni più giovane di me, quindi... Beh, fortunato. All'inizio andava tutto bene, andavo nella sua città, l'andavo a trovare, così con la... Poi a un certo punto mi accorsi che quando non mi trovava all'apparecchio telefonico lasciava dei messaggi farneticanti. Cominciai a addrizzare le antenne e la cosa andava avanti per un po' di tempo. Ogni volta che c'era un contrattempo, c'era qualche cosa, questa signora mi lasciava dei messaggi paurosi. Fino a che una volta capitò che mia moglie si impadronì del numero di telefono di questa donna. Quindi aveva, sua moglie aveva confessato, aveva, cioè aveva, questa... aveva subdorato qualcosa. Col fiuto femminile, e la chiamò E da lì cominciarono i disastri, perché questa si impadronì anche del numero di telefono di mia moglie. Come ha detto Lattanzi, e si estende anche alle persone vicine. Quando non mi trovava, pigliava e chiamava mia moglie, come se fosse l'amica. Senti, muovo passi per favore. Certo, corduta e mazziata proprio, poveretta. Sì, proprio. No, povera, no, mia moglie, anzi, quando capì che io mi volevo sottrarre a questa cosa, andammo insieme alla polizia. Parlo di una decina di anni fa, la legge sullo stalking non c'era. Sì. Andammo insieme alla polizia, la polizia prese nota di questa cosa, un giovane sovrintendente, adesso non mi ricordo come si chiamava, disse: va bene, chiamo io nell'altra città, parlo io con la caserma dei carabinieri più vicina e vediamo che si fa. Una mattina stavo al lavoro, mi sento squillare il cellulare e la voce di questa signora che mi fa: sai chi ho qui davanti? Il maresciallo dei carabinieri. E io gli sto spiegando che io non ho fatto niente, sei tu che mi dai fastidio. E dice: e sei tu che potresti essere denunciato per procurato allarme, qualcosa del genere. Andiamo bene, tranne la beffa, proprio una cosa dell'altro mondo. Quindi, la traccia della polizia andò male. Sì, però se arrivano sms, oggi gli sms possono essere salvati in una cartella, salvate i messaggi, abbiate una prova concreta, sennò veramente, è chiaro, l'astuzia, la capacità di manipolare dello stalker o della donna stalker in questo caso, poi vi si rivolta contro. Fermo lì, Francesco, buongiorno. Francesco è caduto, lo recuperiamo. Francesco è importante, era un avvocato penalista che aveva qualcosa da dirci sul reato di stalking, che è molto interessante. Lattanzi, rispetto a queste ultime telefonate. Guarda, a me fanno infinitamente piacere, passatemi il termine, perché noi diciamo da 12 anni che lo stalking non è una violenza di genere. E infatti negli ultimi 5 anni il trend degli uomini che purtroppo riconoscono di essere vittime di stalking è passato dal 5-7% a oltre il 30%. Un uomo un po' si vergogna di dirlo magari, perché... Assolutamente, come dicevamo prima nel nostro sondaggio universitario, il 91% degli uomini, dei ragazzi vittime di violenze stalking non ha mai denunciato, a fronte del 50% delle donne. Quindi però ha sentito la telefonata prima di quell'uomo, alla fine lascia uno spiraglio, perché l'uomo alla fine un po', non voglio dire che sia lusingato, che è una brutta parola, ma no, è sempre no. Una donna che esprime delle attenzioni nei confronti di... L'uomo purtroppo ha, passatemi il termine, questa sindrome della porta aperta, non riesce ad essere cattivo fino in fondo, non è che stia dicendo che la donna riesce, ma l'uomo riesce ad esserlo meno. La donna quando chiude è inesorabile, esatto, e c'ha ragione, no. L'uomo c'ha sempre... Difficilmente, è il complesso della ripresina. Fermo un attimo Lattanzi, abbiamo ribeccato Francesco. Francesco, buongiorno. Dottore, buongiorno, come sta? Oh, finalmente un avvocato penalista che ci aiuta. Ci parli un po' allora dei problemi riguardo al reato di stalking. Innanzitutto è un reato che nelle procure viene trattato in maniera tranquilla oppure ci sono dei problemi? No, il punto proprio, ecco, il contributo che volevo dare di carattere tecnico e che riguarda la mia esperienza professionale. Si tratta di un reato per il quale le procure hanno creato delle sezioni specializzate, ma si tratta di un reato che ha delle enormi controindicazioni sotto il profilo della interpretazione, perché è un reato che ha una carenza di tassatività enorme, perché sono condotte la maggior parte delle volte molto molto fumose sotto il profilo dell'interpretazione e spesso vengono strumentalizzate, chiedo scusa per il navigatore, vengono strumentalizzate dalle persone offese e si accompagna almeno nel 50% dei casi a problemi di, per esempio, mancata o gli obblighi di assistenza familiare. Ecco, diventa il tipico esatto, Grimaldello, esatto. L'abbiamo fatto tante volte, esatto, col suo collega Gassani, questa storia qui che diventa... Però esatto, mi fa capire... Lei che è un avvocato, e oggi diciamo essere avvocato penalista prescrive anche di poter dare questi consigli. Se dovesse dare dei consigli a una vittima per in qualche maniera costruirsi o crearsi o mantenere delle prove certe, cosa dovrebbe fare? Ma assolutamente quello che lei diceva prima è fondamentale, nel senso che gli sms vanno tutti salvati. Salvati in una cartella. Salvati, sì. A me è capitato di vedere delle denunce di stalking e quando la persona offesa è stata chiamata a dibattimento per testimoniare non ha portato neanche uno straccio di sms, per esempio. È chiaro che il magistrato a quel punto che deve dire. Vanno salvati e stampati, come ovviamente vanno conservate eventualmente tutte le lettere e possono anche essere registrate le eventuali telefonate. Però ecco, io le dico che nella mia esperienza... Ecco, per registrare telefonate qua bisogna rivolgersi a un legale o a una persona autorizzata. No, la telefonata con l'interlocutore diretto può essere registrata. Non può essere registrata la telefonata tra due soggetti diversi rispetto all'interlocutore, ma la telefonata tra te e l'interlocutore, come la conversazione diretta, può essere quindi registrata. Quindi oggi ogni smartphone, ogni telefonino ha la funzione, uno registra la telefonata, chiama e registri. Senti, cosa rischia, avvocato, uno stalker? Ma non tanto sotto il profilo della pena, quanto sotto il profilo invece della possibilità di applicare misure cautelari piuttosto, diciamo, anche severe, anche aggressive, come ad esempio l'allontanamento, l'allontanamento che è la misura cautelare più applicata in questi casi dalle procure e che porta delle controindicazioni quando ci sono per esempio dei figli, perché quando ci sono dei figli questo comporta distacchi traumatici tra padri, parlo di padri perché il 90% ovviamente sono uomini, tra padri e figli, e nell'esperienza quotidiana devo dire che si tratta almeno nel 50-60% dei casi di denunce. Un'ultima cosa paradossale, approfitto del fatto che lei sia qui con noi. Esiste una maniera preventiva per potersi avvalere di un avvocato penalista? Mi viene in mente come uno fa a scrivere una lettera all'avvocato, cercare di dare un avvertimento alla persona prima di passare proprio alle vie legali. È una strada a cui noi facciamo ricorso abbastanza spesso, almeno per quello che mi riguarda.